Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Oh, love. Oh, love. Shauna. I went to my baby's house and I sat down on her step. She said, come on in, I'm ready to know my husband just not left. Showing up and just not left. Showing up and just not left. Oh, Lord. Oh, well. Oh, well. Well, my mother told my father just before I was born, I got a boy child coming, gonna be a rolling stone. Showing up, he's a rolling stone. Showing up, he's a rolling stone. Oh, well, he's a. Oh, well, he's a. Oh, well, he's a. Bentornati su Tonight Alive, questa è sempre Radio Wombat, questa spero sia la vostra trasmissione preferita del sabato sera. Bentornati qui a Tonight Alive, io sono sempre Dalai Dama e spero che abbiate riconosciuto il protagonista di stasera dalla sigla assolutamente... Canzone storica la definirei veramente, Rolling Stone di Muddy Waters, perché dopo aver fatto la scorsa puntata su Howlin' Wolf mi sarei sentito in colpa a non fare almeno un'altra puntata sul blues elettrico e non parlare di Muddy Waters, veramente... un atto, sarebbe sembrato proprio un atto di lesa maestà. Mi era piaciuto partire con Howlin' Wolf perché magari è meno conosciuto rispetto a un grandissimo veramente come Muddy Waters, e quindi sì, sono voluto partire con Howlin' Wolf, però appunto Non mi potevo tirare indietro a fare un'altra puntata sul blues elettrico con Muddy Waters. Però ecco, appunto, prima di tornare, di proseguire la puntata con il maestro, ricordiamo come sempre tutti i modi per contattarci qui a Radio Wombat in quest'estate di Radio Wombat, e ovviamente il sito è quello dove mi state ascoltando o da dove avete scaricato il podcast, ed è wombat.noblogs.org. La nostra mail, mi piace sempre ricordarvela invitandovi a mettervi in contatto con noi, è postawombat@insiberia.net, oppure i nostri canali social, se volete mettervi istantaneamente in contatto con noi e sapere sempre le ultime news riguardo alla radio, sono su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook, facebook.com/radio-wombat-firenze. E allora ributtiamoci per questa torrida estate, ributtiamoci nel torrido Mississippi. Infatti ci sta proprio bene questo parallelo. Magari nel Mississippi farà ancora più umido di qua, però mi sembra quasi di essere anche a me nel Mississippi, in quell'inizio, proprio appena passato gli anni 10, dove McKinley Morganfield, nato appunto McKinley Morganfield, nasce nella piantagione di Stonewall, vicino a Rolling Fork nel Mississippi, e come la maggior parte degli afroamericani ai tempi, la sua data di nascita, il giorno, ma anche e soprattutto l'anno, non si sa bene quando sia nato. Comunque agli inizi d'aprile, tra il 1913 e il 1915, lui dice 1915, però poi sono andati a ricercare le carte appunto all'anagrafe lì nella contea del Mississippi, e sembrerebbe fosse nato due anni prima, nel 13, quindi insomma, come spesso succedeva, non è ben chiaro quando sia nato esattamente, ma ci interessa fino a un certo punto. E il soprannome Muddy Waters, acque fangose, le era stato dato fin da piccolo dalla nonna per la sua abitudine a infilarsi in qualsiasi pozza che il grande fiume Mississippi faceva tra le sue rive. Ed era figlio di contadini, e suo padre tra l'altro era anche un musicista, quindi insomma si suonava comunque in famiglia. E purtroppo perse la madre molto presto, intorno all'età di 3 anni, e lo lasciò con insieme ad altri 9 fratelli. Erano come usava ai tempi, una famiglia bella nutrita. E dopo la morte della madre, il piccolo Muddy seguì la nonna nella vicina Clarksdale. E già quando era poco più che adolescente, intorno ai 16-17 anni, sapeva già suonare molto bene la chitarra e anche l'armonica, emulando i due grandi bluesmen a lui vicini nella zona, che erano appunto Son House e Robert Johnson, di cui vi avevo già fatto un accenno nella puntata precedente. Son House, come dicevo, appunto è uno dei più grandi capostipiti del quello che si chiama country blues, del country rurale, quello prima dell'amplificazione, e appunto Robert Johnson, poi saltato agli onori delle cronache per la leggenda di essere stato il primo a vendere l'anima al diavolo ad un incrocio per riuscire a suonare magnificamente la chitarra. E il giovane Muddy Waters si ispirò appunto a loro due agli inizi. E nonostante appunto già riuscisse a guadagnare qualche centesimo suonando nelle feste e ai picnic lì nei dintorni della contea, di quella contea del Mississippi, lavorava anche come la maggior parte dei neri del sud. A raccogliere campi a raccogliere cotoni nelle piantagioni dei bianchi. E lì, appunto, nella piantagione di Stonewall, conobbe anche Son Slims, che era un violinista e un chitarrista, e fu tra l'altro anche proprio uno dei suoi primi maestri. E per coincidenza, pensa un po', nel 1942, dalle parti della piantagione di Stonewall, capitò Alan Lomax con il suo furgoncino e con il suo gigantesco registratore sopra, che appunto stava raccogliendo per la Library of Congress documenti del blues originario, una ricerca etnomusicologica sull'inizio appunto del blues e delle musiche folcloriche americane, appunto. E in quell'agosto del 41, per la prima volta nel 41, Lomax capitò appunto nella piantagione di Stonewall e fece registrare per la prima volta il giovanissimo Muddy Waters. E Muddy Waters poi racconterà quell'episodio in un'intervista a Rolling Stone, appunto la canzone che avevo scelto all'inizio, l'avevo scelta appunto anche per questo. Rolling Stone di Muddy Waters ha dato nome niente po' di meno che tanto alla famosa rivista musicale americana, quanto e anche alla molto più famosa poi band di Mick Jagger e Keith Richards. Però tornando a noi, appunto, dichiara in questa ricorda in questa intervista per il Rolling Stone che lo vide proprio arrivare dietro a casa sua con questo furgoncino e gli chiese, siccome lui stava strimpellando lì a casa sua, gli chiese di registrare qualcosa e lui proprio gli registrò la prima cosa che gli veniva in mente e non gli sembrava, e dice: ricorderò per sempre quel sabato pomeriggio quando per la prima volta ho risentito la mia voce registrata, perché nel 42, insomma, i registratori appunto erano ancora grandi quanto il cassone di un furgone, quindi cioè, era una cosa molto rara. Appunto, poi nelle piene campagne del sud i 78 giri in ceralacca erano abbastanza rari, ecco. E quindi ecco, si stupisce appunto di aver sentito la propria voce registrata, e racconta che dopo Lomax, che è sempre anche stato un gran filantropo, gli mandò due copie della sua registrazione insieme a $20, che erano un bel po' di soldi a quel tempo, specialmente per un nero delle piantagioni. E quando gli arrivò questi primi due dischi con la sua voce registrata, racconta che corse nel primo posto dove c'era un jukebox nel paese e risentì appunto la sua voce, fu veramente incredibile. Da quel momento lui si ripeté continuamente che ce la poteva fare, lui ormai aveva deciso che sarebbe voluto diventare un bluesman. E là nel luglio dell'anno dopo, del 42, Alan Lomax ritorna e cerca proprio lui, cerca proprio Muddy Waters per farlo registrare, stavolta appunto insieme anche al violinista Son Slims. E si possono andare anche a ritrovare queste primissime registrazioni fatte appunto nella piantagione di Muddy Waters, perché poi sono riuscite per la Testament di Alan Lomax con il nome di Down on Stonewall Plantation, e anche poi la Chess Records, che diventerà, vedremo poi, l'etichetta di Muddy Waters, ripubblicherà in CD con il nome The Complete Plantation Recordings. E anche poi la Library of Congress nel 93, rimasterizzate nel 97, le farà uscire, quindi adesso sono abbastanza facilmente recuperabili. E avevo scelto per voi appunto da questa registrazione del 42 di Alan Lomax, Muddy Waters che canta questo spiritual che si chiama Why Don't You Leave So God Can Use You, che è appunto uno spiritual risuonato appunto con proprio in puro stile del blues rurale di quel tempo. Quindi un giovanissimo Muddy Waters, Why Don't You Leave So God Can Use You, Radio Wombat. You live so God can use you anywhere, though, anytime. Why don't you live so God can use you anywhere, though, anytime. Why don't you think so God can use you anywhere, anytime. Why don't you think so God can use you anywhere, Lord, anytime. Why don't you walk so God can use you anywhere, Lord, anytime. Why don't you walk so God can use you anywhere, Lord, anytime. You moan so God can use you anywhere, Lord, anytime. Don't you moan so God can use you anywhere, Lord, anytime. Why don't you sing so God can use you anywhere, Lord, anytime. Don't you sing so God can use you Eh sì, proprio un blues, proprio blues acustico 100% in questa secondo arrivo di Lomax nella piantagione di Stonewall, lì dove appunto viveva Muddy Waters. E giù nel Mississippi il giovane Muddy per un certo periodo gestì anche quello che si chiamava juke joint, ovvero era una sorta di locale improvvisato dove si giocava d'azzardo e si poteva ascoltare o musica da un jukebox oppure si poteva sentire musica dal vivo. Appunto nel juke joint di Muddy Waters si esibiva proprio Muddy Waters dal vivo, e era lì che aveva iniziato, diciamo, a fare, li faceva anche sempre in giro, aveva iniziato facendoli in giro alle feste di paese e ai picnic collettivi, e diciamo uno dei primi locali dove aveva iniziato a esibirsi era, fu proprio il suo. Però nel 1943 Muddy Waters, come moltissimi afroamericani del sud degli Stati Uniti, durante la guerra e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, decise lui, come tantissimi altri afroamericani, di partire verso il nord, lasciando le durissime condizioni di vita del sud degli Stati Uniti, e appunto andò a cercare fortuna a Chicago per appunto vedere di diventare un bluesman professionista a tempo pieno, perché già a Chicago, insomma, il blues già da un po' di tempo, con l'arrivo dei primi bluesmen dal sud degli Stati Uniti, stava iniziando già a prendere piede appunto lassù nell'Illinois. E appunto arrivato a Chicago lavorava di giorno come autista e di sera suonava nei bar e nei piccoli club. E appunto fu lì a Chicago che conobbe il grandissimo bluesman e chitarrista Big Bill Bronzi, e fecero amicizia, e allora Big Bill prese sotto la sua ala protettiva il giovane Muddy e se lo portava a aprire i suoi concerti in giro per Chicago e nei dintorni. E per questo, per la carriera di Muddy Waters, fu già un bel trampolino di lancio, perché permise, aprendo i concerti di Big Bill Bronzi, riuscì quasi da subito a raggiungere un pubblico abbastanza nutrito, ecco. E nel 1944, quindi l'anno dopo che arrivò a Chicago, Muddy Waters comprò la sua prima chitarra elettrica, perché racconterà poi, la prima cosa che notò arrivando a Chicago era che aveva assolutamente bisogno di un amplificatore, perché se no con la sua chitarra acustica dentro un club non l'avrebbe mai sentito nessuno. E riguardo proprio a questi inizi di Muddy Waters, il grande Willie Dixon poi racconterà delle prime esibizioni di Muddy, che appunto la sua caratteristica era che sì, c'era tantissime artisti che già suonavano il blues lì a Chicago, però era tutto un blues triste. In fondo, alla fine, il blues è una musica triste di fondo. E però Muddy reinterpretò appunto a modo suo il canone blues rurale e gli dette quel po' di pepe in più, ecco. E di lì a pochissimo, grazie appunto alle sue esibizioni insieme a Big Bill Bronzi, Muddy Waters troverà subito un ingaggio con un'etichetta discografica, con quella che allora si chiamava Aristocrat, ma che pochissimo tempo dopo verrà rinominata Chess Records. E questo è il primo singolo fatto uscire da Muddy Waters per la Chess Records, la famosissima I Can't Be Satisfied, 1948. Wombat. Well, I'm gone away. so, child, don't you worry, oh, woman, I'm trouble. I be all ruined. Well, babe, I just can't be satisfied, and I just can't keep on. Well, I feel like snapping pistol in your face. I'm gonna let some graveyard lord be her resting place. Woman, I'm trouble, I be all worried mine. Well, babe, I can never be satisfied, and I just can't keep on. I didn't see not a doggone thing. Woman, I was trouble, I was all worried now. Well, honey, I could never be satisfied, and I just couldn't keep on. Well, I know my little babe, she gonna jump and shout. That old train delayed me, Lord, and I come walking out. I be trouble, I be all ruined mine. Well, honey, ain't no way to work for me to be satisfied, and I just can't keep on dying. Fantastica, I Can't Be Satisfied di Muddy Waters, veramente un grandissimo classico. Il primo singolo fatto uscire da Muddy per l'etichetta appunto dei fratelli Leonard e Phil Chess, che la curiosità è che inizialmente nei primi anni, quando arrivò appunto nella loro etichetta discografica, non permisero a Waters di farsi accompagnare dalla propria band nelle registrazioni di studio. Infatti nei primi dischi pubblicati per la Chess Records, Ernest Big Crawford, il contrabbassista nelle registrazioni di Muddy Waters, e qualche anno dopo, direi anche giustamente, la Chess cambiò idea e nel settembre del 1953 permise per la prima volta a Muddy Waters di registrare con la sua band al completo, anche perché, con tutto il rispetto per Ernest Big Crawford, il bassista della band di Muddy Waters era niente po' di meno che il grande Willie Dixon, di cui vi avevo già abbastanza parlato nella puntata con Howlin' Wolf. E appunto c'era Willie Dixon al basso, ma era solo uno delle tante star che c'erano nella band di Muddy Waters, perché si può dire che la blues band di Muddy Waters è forse stato il più grande di quegli anni lì, è stato probabilmente il più grande complesso blues di tutti i tempi. Oltre a esserci appunto Muddy Waters alla chitarra e Willie Dixon al basso, che basterebbero già solo loro, c'era anche Jimmy Rogers all'altra chitarra, il grande Little Walter all'armonica e l'altrettanto grande Otis Spann al pianoforte. Quindi era veramente si può dire un super gruppo, ecco, e poi questa parola la ritroveremo abbastanza nel proseguo della puntata. E con questa, appunto, con questa formazione, che nei suoi vari interpreti poi varierà nel tempo, Muddy Waters proponeva sì il blues arcaico, il country blues del Delta, basato sullo stile chitarristico sicuramente di Son House, per lo stile vocale, per quello dell'allievo di House, Robert Johnson, ma era elettrificato e quindi elettrificato e amplificato, quindi ancora più galvanizzante per l'immaginario e per la presa sul pubblico. Era una cosa nuova, cioè si può dire è stato Muddy Waters è stato il primo a elettrificare il blues del Delta, sicuramente. E la sua chitarra, la chitarra solista era sempre in primo piano, e anche quando si limitava solo a tenere il tempo. E l'armonica dava una mano con i suoi preziosi assoli a sorreggere la chitarra, e la seconda chitarra serviva appunto come contrappunto alla prima, uno schema che poi rimarrà invariato per tantissimi e tantissimi altri, per tantissimo altro tempo. E la cosa appunto della puntata di oggi di Muddy Waters è talmente un grande, ha influenzato talmente tanto la musica poi a seguire, che appunto mi piaceva magari farvi sentire i suoi brani originali, e poi magari farvi sentire anche come poi un tot di anni dopo i suoi, diciamo, allievi, tutti quelli che sono rimasti folgorati dallo stile blues di Muddy Waters e di Howlin' Wolf, poi come reinterpretarono soprattutto in Inghilterra il blues appunto degli Stati Uniti d'America. E nel 1950 Muddy Waters fa uscire su disco Rolling and Tumbling, che in questo caso poi vi voglio far sentire subito dopo la versione che 16 anni dopo hanno dato i Cream appunto a Rolling and Tumbling di Muddy Waters. E quindi Muddy Waters, Cream, Rolling and Tumbling, Radio Wombat. Well, I roll and I tumble, cried the whole night long. Could have had let me pray. E adesso la versione psichedelica e dagli steroidi dei Cream, Rolling and Tumbling. Mamma mia, una versione veramente senza fiato, velocizzata ai massimi dai tre mostri che erano i Cream. Io prima sicuramente ho sentito prima appunto questa, ho conosciuto prima questa versione di Rolling and Tumbling, questa qui suonata dai Cream, perché era un grande classico. I Cream erano uno dei gruppi preferiti di mio padre, questo era appunto, appariva nel loro esordio in Fresh Cream del 1966, una versione proprio super velocizzata e anche molto psichedelica. E i Cream, voglio ricordare che erano quel, appunto, si diceva prima dei super gruppi, e i Cream per il rock di fine anni 60, fine anni 60, sono stati veramente forse il primo supergruppo riunito per quei tempi. Infatti c'era Eric Clapton alla chitarra, un altro grandissimo come proprio compositore e strumentista come Jack Bruce al basso, e l'altrettanto immenso Ginger Baker alla batteria. Infatti non so se avete notato quel povero disgraziato dietro i piatti che lavoro ha dovuto fare per star dietro agli altri due pazzi che suonavano, e lì dietro alle pelli Ginger Baker aveva veramente il suo grande affare per stare dietro a tenere il tempo per Clapton e Jack Bruce, che fra tutti e due erano veramente veramente veramente tanta roba a livello di tecnica strumentale. E poi ecco, dopo questa Rolling and Tumbling, un altro grande successo che conoscerete sicuramente tutti, l'avrete sentita milioni di volte, di Muddy Waters, è Baby Please Don't Go, che è la registrata nel maggio del 1953. Quante versioni avrete sentito di Baby Please Don't Go? Non lo so quante ne state fatte, ma cioè, Baby Please Don't Go è stata reinterpretata veramente da tutti, più o meno, ovviamente più o meno bene. E pensavo fosse un brano autografo di Muddy Waters, e invece poi ho scoperto che in questo caso la cover è quella di Muddy Waters, perché la versione originale di Baby Please Don't Go la prima volta è stata registrata nel 1935 dal chitarrista Joseph Lee Big Joe Williams, chiamato anche, conosciuto come semplicemente Big Joe Williams, che era un chitarrista nato a Crawford poco, una decina di anni prima di Muddy Waters, ed era famoso soprattutto per suonare la sua chitarra aveva 9 corde. Era soprattutto famoso per questo. E appunto con questa curiosità vi volevo far sentire in questo caso la nuova doppietta. In questa trasmissione andremo quasi tutta a doppiette, e ci sentiremo prima la versione, che in questo caso è la cover di Muddy Waters di Baby Please Don't Go, e poi ci andremo a risentire, faremo un salto di 18 anni prima, e ci andremo a sentire appunto la versione originale di Big Joe Williams, e in questo modo si potrà anche sentire, apprezzare ancora di più la trasformazione che Muddy Waters ha attuato al blues originale. E quindi appunto Baby Please Don't Go. Thank you. than you, Arlene. You know I love you so. Before I be your dog, before I be your dog, before I be your dog, I get you way down here and I make you walk. Turn your lap down low, turn your lap down low, turn your lap down low, and I beg you all night long. Adesso la versione originale del 1935 di Big Joe Williams. Now baby, please don't go. Now baby, please don't go. Baby, please don't go back to your knees and get your coat like me. I believe it, a man done gone. I believe it, a man done gone. I believe it, a man gone to the county phone. Now with the long chain on. You turn your lamp down low. Turn your lamp down low. I cried all night long. Now baby, please don't go. I begged you night before. I beg you night before. Beg you night before. Turn your lamp down low. Now baby, please don't go. I be my baby, don't lie. I be my baby, don't lie. I see my baby, she lied, that she didn't have a man. Now while I had my time. Oh, I need your dog, friend. this morning, baby. Go back to rolling for. I believe I'll leave young. Cause you got your way up here, and you don't feel much here. Now, baby, please don't go. Oh, baby, please don't go. Now, baby, please don't go. Back to you only. You know I love you so. I see you trying to leave me here. I leave your daddy here. I leave your daddy here. You got me way down here, and you don't feel my. E questa appunto era la prima versione, la prima versione incisa di Baby Please Don't Go, che appunto è del 1935 di Big Joe Williams. E anche se non sono 20 anni di differenza tra le due incisioni, si può sentire benissimo, insomma, già l'evoluzione che aveva avuto in poco più di 15 anni questa musica. Però ecco, fino all'arrivo di Muddy Waters e alla sua amplificazione appunto del blues, anche se fosse stato pochi anni prima di quel 53, di quando è stata incisa da Muddy Waters in versione elettrica, anche fosse stata incisa nel 48, avrebbe suonato molto molto più simile a, appunto, alla versione di Big Joe Williams, che non a quella che poi ha inciso Muddy Waters elettrificandola, che già sembra completamente un'altra canzone, ma riarrangiata e con la potenza dell'amplificazione, quindi delle dinamiche diverse tra gli strumenti all'interno del complesso, si trasforma quasi completamente in un'altra cosa, come poi giustamente le cover fatte bene diventano delle altre canzoni, o comunque, come si dice, delle altre versioni. Ma arriviamo nel 1955, perché è proprio in questo anno che è il turno di un altro grandissimo classico del blues di tutti i tempi, ovvero quando Muddy Waters farà uscire questa canzone cui titolo è Manish Boy, che poi diventerà numero uno negli USA nella classifica Rhythm and Blues. Non mi voglio ricordare male, ma sembra che sia stato il primo numero uno di Muddy Waters in classifica. Ecco, Manish Boy era stata scritta da Dixon l'anno prima, appunto sempre per Muddy Waters, visto che vi ricordo appunto Dixon, oltre a essere uno dei maggiori autori del rhythm and blues, è stato anche uno dei maggiori autori proprio di canzoni per la Chess Records, proprio per l'etichetta, dando le sue canzoni per farle diventare grandissimi successi in mano agli altri cantanti e interpreti dell'etichetta. E appunto questa, che inizialmente si chiamava Hoochie Coochie Man ed è uscita nel 54, e poi è stata ripresa in mano l'anno dopo da tutta la band, è diventata la versione definitiva, che è appunto la famosa Manish Boy. Che poi, appunto, volendo fare questa puntata a doppiette, Manish Boy, poi come da Hoochie Coochie Man è diventata Manish Boy, poi nel corso degli anni 60 Manish Boy diventerà I Am A Man, che non so se ce l'avete presente, ma appunto nella versione quando si chiamerà diventerà I Am A Man, ma anche già nella versione appunto questa di Manish Boy è stata rifatta praticamente da qualunque band abbia mai pensato anche solo di ispirarsi lontanamente al blues. E in questo caso appunto arriviamo, perché l'altra canzone che vi voglio far sentire, l'evoluzione che ho scelto per voi, è I Am A Man degli Yardbirds. E gli Yardbirds furono veramente una band fondamentale per quello che è stato poi ridefinito il blues revival, ma che ha dato poi il là a quasi tutto, a quasi tutto il rock poi degli anni 70, lo influenzerà in pieno. E gli Yardbirds hanno un posto d'onore nella storia della musica, perché nella loro formazione si sono avvicendati tre dei chitarristi che poi appunto genereranno un sacco di altra musica classica del rock nelle loro quelle che poi saranno le loro formazioni successive. Cioè, tanto per dire, fino al 1965 il primo chitarrista degli Yardbirds fu appunto Eric Clapton, e poi nel febbraio del 65 mollò perché li considerava troppo commerciali e andò a suonare insieme all'altro purista del blues britannico, John Mayall, e andò appunto a fare quello storico album del blues revival inglese, che è John Mayall and the Heartbreakers with Eric Clapton. È veramente, oltre a essere un caposaldo del blues revival, ma è anche un disco importantissimo per il blues elettrico e il rhythm and blues tutto. E quindi, dopo aver lasciato nel 65, gli Yardbirds cercarono un altro chitarrista, e inizialmente avevano individuato in questo giovane che si chiamava Jimmy Page un possibile sostituto di Clapton, ma inizialmente Page voleva continuare a fare il turnista nelle sale di incisioni, e allora andò a fare il provino un altro chitarrista niente male, che era Jeff Beck, e appunto Jeff Beck prese il posto negli Yardbirds di Eric Clapton. Ma Jeff Beck non è che ci fosse tanto con la testa e che fosse un granché professionale, quindi insomma gli altri degli Yardbirds cominciavano a reggerla abbastanza male. E poi servì a un certo punto agli Yardbirds un bassista, e Jimmy Page era libero, inizialmente entrò come bassista, però ad un concerto il buon vecchio Jeff non ce la faceva a suonare, e per quell'occasione Page andò a prendere il posto della chitarra solista. E da quel momento fu evidente che insomma il suo posto fosse quello. E infatti per un paio di anni gli Yardbirds suonarono con questa formazione avveniristica per i tempi, con due chitarre soliste e due chitarre come quella di Jeff Beck e di Jimmy Page. Poi nel 1968 tutto il resto degli Yardbirds ne ebbe abbastanza di Jeff Beck, che venne, anche se non ufficialmente, venne licenziato dal gruppo, e Jimmy Page rimase come unica chitarra solista della band, per poi lasciarla poco tempo dopo, perché insieme all'amico Robert Plant andò a fondare come spero sappiate, niente po' di meno che i Led Zeppelin. E appunto vi volevo far sentire adesso Manish Boy nella versione del 1955 di Muddy Waters, e poi quella che diventerà I Am Man in una versione live degli Yardbirds nel 1967 con le due chitarre di Jeff Beck e Jimmy Page insieme. E quindi Manish Boy, Muddy Waters, Radio Wombat. Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. I was a young boy at the age of five. My mother said I'd be the greatest man alive. But now I'm a man, I made 21. I want you to believe me, honey. We're having lots of fun. I'm a man. Yeah! I spell him H-I-N. That rather than me. Yeah! No B. Oh, child. Why? That spell managed boy. But a man. I'm a full grown man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside, just me and my mate. I made the moon. Come up 2 hours late. Well, not a man. I spell him H-I-N. That rather than man. No B. Oh, child. Why? That spell managed boy. I'm a man. I'm a full-grown man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. Full-grown man. Oh well. Oh well. Quante volte l'avrete sentita questa canzone? E adesso sentiamoci la versione del 1967 degli Yardbirds, Wombat. We would like you to get hands together and clap. Right. Off beat. Make a big noise. Let me get started with this music. Sound. I'm a man, I spell Yardbirds, che poi a loro volta influenzeranno, secondo me, tantissimo rock della baia californiana e di tutto quello, tutta l'onda psichedelica che poi si prenderà buona parte degli Stati Uniti dalla seconda metà degli anni 60 in poi. Però appunto tutto si può far risalire a Muddy Waters in buona parte, era quello che mi piaceva far capire in questa trasmissione. Infatti con il primo suo tour britannico nel 1958 esportò di fatto il rhythm and blues e pose le basi per l'esplosione del rock britannico. Nel 1958 appunto Muddy Waters andò a fare il primo tour oltreoceano. Nella puntata scorsa vi dicevo appunto anche del tour europeo di Howlin' Wolf, che era stato nel 64, ma Muddy Waters c'è stato ben 6 anni prima a far conoscere il rhythm and blues in Gran Bretagna, e con questo 1-2 appunto di Muddy Waters e Howlin' Wolf ci fu il knockout pieno la nuova generazione di cantanti e strumentisti inglesi che da quell'incontro con il rhythm and blues americano non tornarono più a essere gli stessi, si può dire, ecco. Ma appunto in quel tour del 58 fu tanto importante perché appunto l'audience britannica rimase sconvolta dal suono elettrico di Muddy Waters, anche perché appunto in quel tour suonava insieme a bluesmen classici come Sonny Terry, Brownie McGhee e lo stesso Big Bill Bronze, che era un po' la star ospite di questo tour, e il sound della band di Muddy Waters era anni luce più lontano dal suono del classico suono del blues acustico. E due anni dopo, infatti, questa grande novità fu chiamato a un altro importantissimo festival, che è il Festival Jazz di Newport, di cui vi ho già ampiamente parlato nelle puntate riguardanti il jazz. Bene, in quel 1960 Newport inizia a aprirsi anche agli altri generi, diciamo, nobili americani. E in questo caso, vista l'esplosione del rhythm and blues, chiama anche Muddy Waters e la sua band ad esibirsi in quello che poi resterà un album, un concerto storico, appunto quello del 1960, la prima volta che appare il blues e il blues elettrificato, uno shock talmente grande che potrebbe essere paragonato all'altro shock che avvenne 5 anni dopo al Festival di Newport, ovvero nel 1965, quando Bob Dylan, insieme alla Paul Butterfield Blues Band, si presentò a Newport e suonò il folk elettrificandolo, facendo scoppiare un putiferio, perché i puristi del folk sono molto molto più puristi sia dei bluesmen sia dei jazzisti, e i jazzisti e i puristi proprio non lo sono per niente, anzi sono molto più per la contaminazione tra generi. E appunto poi, tracciando questa linea con la Paul Butterfield Blues Band, che è veramente, Paul Butterfield è stato un chitarrista e band leader veramente molto importante per quello che poi è stato il blues revival degli anni 60 in Inghilterra, perché proprio Paul Butterfield è stato uno dei più puristi, diciamo, che ha mantenuto proprio il sound tipico, il rhythm and blues nero tipico di Chicago, non modificandolo molto e reinterpretandolo, ma diciamo è rimasto sempre uno tra i più ortodossi, ecco, nel riprodurre lo stile del Chicago blues. E poi, infatti, riconoscendo questa cosa, Muddy Waters collaborato con la Paul Butterfield Blues Band nel 1969 per incidere insieme un album che il titolo dell'album è già un programma, Fathers and Sons, insomma proprio il passaggio di testimone che Muddy Waters riconosce all'ortodossia blues di Paul Butterfield e della sua band. E proprio per questo motivo vi volevo far sentire un altro grande successo di Muddy Waters, che è I Got My Mojo Working, del 1956, sempre argomenti sempre belli, molto hot per come era di uso e costume del blues originario, come potete capire anche dai titoli e dai testi delle canzoni, anche quelle fatte ascoltare in precedenza. E dopo vi farò sentire la versione della Paul Butterfield Blues Band, l'omaggio appunto al maestro che Paul Butterfield ha registrato nel suo primo album, poi uscito nel 1965. E quindi è il momento della doppietta di I Got My Mojo Working. Wombat. Sentiremo la versione che hanno fatto 9 anni dopo Paul Butterfield con la sua blues band I Got My Mojo Working. Got my mojo working, just gonna work. Got my mojo just don't work on me. Bellissima questa canzone, questa cover di Paul Butterfield di I Got My Mojo Working. Questa l'adoro veramente, gli hanno dato quel tiro in più, quella cattiveria, puro rhythm and blues di metà anni 60. Mi piace particolarmente questa cover fatta da Paul Butterfield e dalla sua blues band. Ecco, ma se c'è una caratteristica di Waters è che si può dire che sicuramente non è che proprio cantasse nelle sue canzoni. Sì, certo cantava, ma più che cantare ne urlava qualche pezzo spesso borbottando parole incomprensibili durante la canzone. È proprio questo suo modo grezzo di esprimersi, era proprio la sintesi della civiltà dei bar dei posti dove veniva suonato il rhythm and blues. Pezzi diretti, pieni di parolacce, era, ecco, una vera e propria canzoni che esprimevano il sentimento dal basso, ecco. E spesso la melodia e l'armonia diventavano cose secondarie, infatti cose più trascurabili, ecco. Quello che contava di più era le emozioni che venivano scaraventate verso il pubblico, proprio questo modo di porsi, questo modo di cantare. E infatti ben presto Waters adottò una metrica più libera, appunto, proprio in funzione del suo umore e dell'estro dei suoi accompagnatori, che ovviamente erano sempre di altissimo livello. Ed era, infatti, poneva molta attenzione nell'enfasi dell'improvvisazione degli assoli, ecco, anche questo aspetto della musica di Waters influenzerà tantissimo la musica che poi ci sarà dopo di lui, ecco. Ma Waters cambiò soprattutto l'immagine che aveva il bluesman. Da menestrello solitario e reietto, tenuto emarginato, che cantava per raccogliere l'elemosina e per cantare i dolori del suo popolo, costretto in condizioni di semischiavitù, diciamo, guardando proprio il bicchiere mezzo vuoto. Waters dette, appunto, cambiò questo modo di interpretare il blues e lo fece diventare proprio da menestrello solitario a showman e a band leader. Fu proprio Waters che creò la prima immagine del macio nero potente e da spavaldo dio sessuale, appunto, con i suoi testi delle canzoni sempre piene di riferimenti al corteggiamento e proprio alla consumazione della questione, ecco. E infatti negli anni successivi il suo standard si livellò molto con il rhythm and blues che andava appunto allora per la maggiore, che, diciamo, lui era stato uno degli artefici dell'esplosione di questo successo, e diciamo che per un po' di anni si assestò su una fase media di raccolta dei suoi frutti, diciamo. però riuscì ancora negli anni successivi a piazzare qualche bel colpo. Basti ricordare You Shook Me del 62, che aveva Earl Hooker alla slide, oppure You Need Your Love, sempre di fine del 62, oppure un altro grande successo che è stato The Same Thing dell'aprile del 1964. E appunto con una di queste canzoni, proprio quella You Shook Me, vi volevo far sentire nella prossima doppietta la versione originale del 1962 di Muddy Waters, ma ricollegandomi anche a quello che stavamo dicendo prima, anche la cover che ne fecero i Led Zeppelin nel loro primo album, appunto Led Zeppelin numero 1 del 1969, che come omaggio al maestro reinterpretarono appunto la sua You Shook Me. Ed eccoci alla prossima doppietta: Muddy Waters, You Shook Me, Led Zeppelin, You Shook Me, Wombat. You shook me, baby. You shook me all night long. You know you shook me, baby. You shook me all night long. Kept on shaking me, darling. Oh, you messed up my happy home. You know you moved me, baby, just like a hurricane. You know you moved me, baby, just like a hurricane. Oh, you know you moved me, darling, just like a earthquake moved the land. Oh, sometime I wonder what my poor wife and child go to. Oh, sometime I wonder what my poor wife and child go to. Hey, you know you made me mistreat them, darling. Whoa, I'm madly in love with you. You know you shook me, baby. You shook me all night long. Adesso la versione che Jimmy Page e Robert Plant fecero per il loro disco d'esordio con i Led Zeppelin, You Shook Me. You shook me all night long. Now you shook me, baby. You shook me all night long. I know you really, really did, babe. I said you shook me, baby. You shook me all night long. Grandissimi le Zeppelin nella loro versione di You Shook Me di Muddy Waters, e proprio gli hanno dato loro molto, hanno tenuta lenta ma molto più dilatata, grandi, insomma, si riconoscono subito. Ho sempre adorato i Led Zeppelin, sono sempre stati uno dei miei gruppi hard rock preferiti. Però ecco, come avevo già detto nella puntata riguardante All in Wolf, se volete avere un riscontro cinematografico / visivo di tutto quello che vi sto dicendo, non vi posso altro che consigliare la visione di Cadillac Records del 2008 di Darnell Martin, con appunto nel cast Adrian Brody, Jeffrey Wright, e anche nella parte di Etta James la Beyoncé la Beyoncé. A me se vi piace il genere, ve lo consiglio proprio la visione, perché è proprio lo spaccato dell'inizio della Chess Records, quindi appunto oltre ad esserci come protagonista assoluto Muddy Waters, ci sono anche tutti gli altri grandi dell'etichetta, Holy Wolf, Etta James, poi ci sarà anche Chuck Berry, poi nella fase rock, ma ce ne sono tantissimi, Otis Rush, la Chess Records è stata veramente un caposaldo del blues, del rhythm and blues e della musica nera in generale, anche se i due proprietari erano due fratelli ebrei e non di colore. Però appunto ecco, vi consiglio caldamente, se vi piace il genere, questo film. E tornando alle fasi finali della carriera di Muddy Waters, il buon Muddy lascia questa valle di lacrime nel 1983, andandosene serenamente nel suo letto. E però ecco, se n'era andato il suo corpo fisico, come si dice, però quello che ha lasciato nella musica non lo cancellerà mai nessuno. È stato veramente una delle influenze più gigantesche della musica moderna, specialmente appunto di quel passaggio e di quel filo che lega il blues del Delta del Mississippi fino al Chicago Blues, che è il primo blues elettrificato, ma appunto da lì Poi nascerà il rock, perché sicuramente il rock di Chuck Berry, Elmore James e Bo Diddley, il rock, cioè quello che ancora viene chiamato rhythm and blues, è il rhythm and blues che poi con Elvis e con Rock Around the Clock prenderà il nome di rock per i bianchi, ma non era né, come avevo già detto, rock non è nient'altro che il rhythm and blues dei neri ripulito dalle farolacce e delle movenze esplicitamente sessuali e riproposto poi al pubblico bianco, anche se poi il movimento di bacino di Elvis nel 56 all'Ed Sullivan Show rimarrà appunto nella storia, ma non era, come avevo già detto, assolutamente niente di nuovo. C'era gli entertainer neri già nelle bettole e nelle locande, lo facevano praticamente da 50 anni, quello che poi Elvis rifece appunto in quella sera del 1956. Però appunto, oltre al rock, sicuramente Chuck Berry ha un filo collegato anche con quello che verrà dopo, appunto come vi ho fatto sentire, con la psichedelia, ma anche sicuramente appunto con l'hard rock dei Led Zeppelin. E appunto, influenzando l'hard rock, non si può dire allora che non c'entri qualcosa anche con l'heavy metal. E quindi questo filo, questo lunghissimo filo teso da Muddy Waters, si può dire, come dicevo prima, che ai due estremi collega il blues rurale del Mississippi con l'heavy metal di fine anni 70, inizio anni 80, solo giusto per farvi capire quello che ha significato la figura di Muddy Waters all'interno della musica popolare, tra virgolette, di tutto il Novecento. E quindi a questo punto non mi rimane altro che presentarvi e farvi ascoltare il concerto che ho scelto per voi per stasera, che vabbè, non vi stupirò perché ve l'avevo già detto prima, però non potevo non farvi sentire quel concerto storico, quel crack che è stato Muddy Waters e la sua band, che si sono esibiti a Newport, al Jazz Festival di Newport del 1960, appunto dicendovi che creando quello shock nel pubblico abituato al jazz e al blues dei vecchi tempi, visto che era a suonare in quell'occasione insieme a lui. Ennesima occasione per sentire anche canzoni che vi ho fatto già sentire stasera, però la resa live va sentito via, cioè l'energia delle band del Chicago Blues e del Rhythm and Blues, non si può non sentire proprio che effetto fa suonato dal vivo in un concerto barra in un festival. E quindi non mi resta che lasciarvi appunto a Muddy Waters e alla sua band a Newport nel 1960 e rinnovare l'appuntamento con Tonight Alive e Radio Wombat per il prossimo sabato, per le ultime puntate estive di Tonight Alive, che poi a agosto si prenderà la sua meritata, spero, meritata pausa estiva. E quindi tanti saluti e spero di aspettarvi puntuali come tutti i sabati alle 10:30, sempre qui su Radio Wombat. Un bacio dal vostro Dalai Lama e Muddy Waters, ma non prima di avervi fatto ascoltare il jinglettino di Radio Wombat. Ciao ciao, buon sabato! Wombat. All we hear is Radio Wombat.